non perdiamo l'attenzione su quello che è il tempo di lode, adorazione e preghiera. Stasera vogliamo continuare ancora ad adorare, però prima di farlo voglio condividere con voi un breve messaggio, un breve incoraggiamento, perché siamo nel nuovo anno e sappiamo benissimo, io so che ho davanti a me persone che sono intelligenti abbastanza da sapere che il nuovo non inizia perché un numero nel calendario cambia. Il nuovo anno non inizia perché hai cambiato il calendario e perché non c'è più il 18 ma c'è il 19. Il nuovo inizia nel momento in cui noi rinunciamo a quello che è il vecchio. Questo è quello che è il mio messaggio. Finito qui ci possiamo rialzare e adorare il Signore. Letteralmente questo è tutto, però ve lo voglio dimostrare. Ve lo voglio dimostrare biblicamente quanto questo è vero. In Efesini c'è probabilmente quelli che sono i miei versi preferiti. È l'Apostolo Paolo che si rivolge agli Efesini e al capitolo 4 dal versetto, mi aiuta la regia, 22 dice: avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. L'Apostolo Paolo dice: il nuovo lo si ottiene nel momento in cui ci si spoglia del vecchio. Io ho portato due giacche, c'è una giacca a casa che è piuttosto vecchia, la voglio indossare per voi, è una giacca con qualche buco, qualche macchia, è una giacca alla quale io sono particolarmente affezionato, mi calza molto bene, mi allarga le spalle, aspetta che lo notate anche voi, no? È bella perché mi allarga le spalle, mi fa sembrare non un biker, uno che c'ha la motocicletta, un tipo tosto, ma è una giacca vecchia. È calda, è comoda, l'ho portata per tanti anni, ma è vecchia. E credo che nessuno di voi sarebbe contento se venissi la domenica con questa giacca, vero? Già non siete molto contenti della mia barba lunga e me lo fate sapere, lo so, lo leggo dai vostri sguardi. Però se mettessi pure questa giacca, allora rischieremmo che qualcuno mi lasciasse degli spiccioli a terra, no? E quindi questa è una giacca vecchia e la giacca vecchia va cambiata. A un certo punto il vecchio va tolto e l'Apostolo Paolo letteralmente sta dicendo che non puoi indossare il nuovo, i nuovi doni, le nuove conquiste, le nuove benedizioni che Dio ha per te indossando il vecchio. È letteralmente impossibile, le due cose non vanno insieme. Ci puoi provare, ti puoi sforzare, ma rischi di rompere quella che è la giacca nuova che già sento scricchiolare sotto di me. Perché ho le spalle larghe, grazie Antonio. Il nuovo non va sul vecchio. E se tu vuoi il nuovo nella tua vita, il nuovo viene se sei disposto a rinunciare al vecchio. Il nuovo che Dio vuole portare nella tua vita dipende dalla tua rinuncia del vecchio. È sempre stato così. Dio ha voluto dare del nuovo al popolo di Israele, ma lo ha dato solo nel momento in cui si è reso capace di spogliarsi completamente del vecchio, dell'Egitto. E ci sono voluti 40 anni, non un anno, non due anni, non 10 anni, 40 anni per ottenere il nuovo. Dio vuole darci il nuovo, ma ha detto ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Vuoi tu il nuovo che Dio ha in mente per te? Vuoi il privilegio che Gesù ti dà di poterlo letteralmente seguire nella tua vita, calpestare le sue stesse orme e camminare nei territori dove lui stesso è stato, territori di vittoria, territori di miracoloso? Questo è quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli: volete venire dietro a me? Volete quello che io ho? Volete seguirmi e vivere una vita che ha senso, una vita che ha valore, una vita che ha del miracoloso? Allora rinunciate a voi stessi. Anche Gesù ha detto in un'altra occasione: non è possibile mettere del vino nuovo in otri vecchi. e non è possibile mettere una stoffa nuova su un vestito vecchio. Se tu vuoi il nuovo e vuoi oggi questo nuovo, non devi aspettare che il calendario cambi, perché probabilmente passerà il 2019 e sarà tanto vecchio quanto il 2018. Non aspettare che cambi il calendario, comincia a fare una scelta e falla in preghiera e in adorazione. La preghiera, l'adorazione è proprio quel momento, è quella opportunità che ci è data di spogliarci del vecchio e rivestirci del nuovo. Toglierti il vecchio non è qualcosa che puoi fare da solo. I vizi, le tue passioni corruttrici, no? Come abbiamo letto, tutto ciò che ti trascina a ciò che è peccaminoso, non è qualcosa che puoi toglierti tu con i tuoi sforzi morali di essere una persona migliore, ma è Dio che vuole toglierli, perché Lui ha l'autorità di farlo, però ha bisogno di accedere al tuo cuore e ha bisogno che tu vai alla sua presenza. Per questo la strada per il cambiamento è l'accesso alla sua presenza. Quando sei alla sua presenza, Lui cambia. Quando sei alla sua presenza, Lui trasforma. Quando preghi, quando adori, è lì che avviene questo scambio, dove tu ti togli il vecchio, perché alla sua presenza non puoi stare con le tue macchie, con i tuoi vestiti sporchi, stracciati. Alla sua presenza necessariamente ti devi spogliare. E quello che avviene alla sua presenza è che Lui ti riveste. C'è un altro verso che voglio leggervi, che ci mostra proprio questo. Ora non ricordo dove si trova, non ho gli appunti con me. Ecco, in 2 Corinzi capitolo 9. No, era un altro verso. Non so se l'ho mandato, se ce l'avete in regia. Eccolo, 2 Corinzi capitolo 3, che dice: e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Questo verso ci dice che letteralmente, per quanto straordinario possa sembrare, noi possiamo assomigliare a Dio, noi possiamo essere simili a Lui, noi non abbiamo la condanna per sempre a vivere con il nostro brutto carattere, con i nostri vizi e con tutto ciò che puzza di vecchio, di muffa, di logoro, di sporco. Noi abbiamo la possibilità, alla presenza di Dio, di essere trasformati a sua stessa immagine. Ci pensate un attimo. Tu hai la possibilità di essere trasformato in una persona che manifesta la gloria di Dio, la sua santità, la sua perfezione, la sua eterna pazienza, la sua pace, la sua gioia. Dio è pieno di gioia, il suo amore. Ma c'è una cosa che devi fare: essere disposto alla sua presenza di togliere i vestiti vecchi. E il tuo vestito vecchio forse è l'amarezza, il tuo vestito vecchio forse è la delusione che hai avuto, il vestito vecchio forse è una ferita che ti è stata causata, il tuo vestito vecchio può essere qualcosa che qualcuno ha detto, qualcosa che qualcuno ha fatto, che ha portato in te un dolore, e quel dolore si è trasformato in un vestito vecchio che non ti fa profumare della gloria di Dio, ma ti fa puzzare della carnalità che ti rappresenta e che mi rappresenta. Noi abbiamo questa gloriosa opportunità di fare questo scambio, questa gloriosa opportunità di essere persone nuove e che imparano a fare questo esercizio. Io amo quel verso perché l'Apostolo Paolo lo mostra con chiarezza, dice: non è qualcosa che tu fai un giorno e ti rimane per l'eternità. No, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio e rivestirvi del nuovo. Io non so quante volte al giorno tu ti spogli e ti rivesti, spero almeno una volta. E se è vero per i nostri vestiti fisici, deve essere anche vero per la nostra vita spirituale. Se siamo qui questa sera, non è per continuare a indossare un vestito vecchio e cercare di far calzare qualcosa di nuovo, perché lo so, tutti noi vogliamo doni nuovi da parte di Dio, nuove benedizioni, nuove conquiste, ma dobbiamo capire che se siamo qui e vogliamo tutto questo, dobbiamo essere disposti a dire: Padre, io mi arrendo e cerco prima il tuo regno, che sia fatta prima la tua volontà. Io arrendo i miei desideri, io arrendo le mie passioni, io arrendo le mie inclinazioni, ed è lì che il nuovo inizia, ed è lì che la vita cambia, si trasforma e profuma della gloria di Dio. Stasera abbiamo la possibilità di farlo ancora in adorazione, e io voglio pregare per te, per me, che possiamo toglierci il vecchio in modo tale che Dio ci possa dare il nuovo. Alziamoci in piedi, vogliamo farlo subito. Voglio chiedere a tutti noi di chiudere i nostri occhi, e se è questo quello che vuoi, quello che desideri, ti chiedo di alzare le tue mani, è un segno di arresa. E mentre tu alzi le mani e ti arrendi a Dio, voglio dirti ancora una parola che sono certo che segnerà questo nuovo anno. Ed è una parola scontata forse, che tante volte hai sentito ripetuta, ma è importante che anche in questo nuovo anno tu senta: Dio ti ama, il tuo Padre ti ama, ti ama così come sei, e il tuo Padre ti abbraccia, sì, anche con quei vestiti sporchi lui ti abbraccia, perché c'è proprio una storia che Gesù ha raccontato, dove il figlio, il prodigo, è ritornato dal padre con dei vestiti che puzzavano di letame, dei maiali che lui si è ritrovato a dover custodire, e lo ha abbracciato così com'era, e lui ti abbraccia così come sei. Non devi guadagnarti tu la sua presenza, non devi guadagnarti tu il suo abbraccio, lui ti abbraccia così come sei, perché ti ama e ti ama tanto. Ed è stasera che lui vuole cambiarti, ed è stasera che vuole toglierti quello che è vecchio e metterti ciò che è nuovo. E io voglio pregare te, Padre, che sei così misericordioso, così pieno di amore e di grazia per ciascuno di noi, che tu possa abbracciare noi uno ad uno. Noi vogliamo il tuo abbraccio, noi desideriamo il tuo amore, noi desideriamo il nuovo che hai da darci, noi lo desideriamo con tutto il cuore. E se siamo qui è per dirti che ti amiamo anche noi, che vogliamo il tuo regno, che vogliamo dipendere da te, che vogliamo quella vita meravigliosa alla quale tu ci hai destinati. Siamo qui con le mani alzate per dirti che ci arrendiamo a te, che arrendiamo i nostri peccati, che arrendiamo i nostri pensieri impuri, che arrendiamo il nostro vecchio anno, che arrendiamo le dinamiche che ci sono state, che arrendiamo i nostri vizi, che arrendiamo i nostri circoli viziosi di pensieri, di azioni, di scelte che facciamo guidate dalla nostra carnalità. Tutto questo lo arrendiamo a te, chiediamo di darci il nuovo. Oh, io prego, Padre, che in questo momento tu possa soffiare col tuo spirito nei cuori nostri e spazzar via tutto ciò che è vecchio per sostituirlo con il nuovo, con la verità, con i tuoi pensieri. Dai questa sera pensieri profetici, dai questa sera pensieri che hanno a che fare con la vita, con il riscatto, con il nuovo che tu hai già conquistato per ciascuno di noi. Lo prego per ognuno di noi nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù prego questo. Alleluia. Forza, adoriamo, fai ora la tua preghiera a Dio, alla luce di quello che Lui ha voluto dirti questa sera. Prega tu, fai la tua preghiera a Dio e chiedi a Lui di intervenire. Vivi questo scambio, lascia il vecchio, afferra il nuovo. Fallo tu personalmente con Dio.